letti a giocare per le strade, perché senza un prato purché giocare non sia un reato. Ci sia un altro morto schiacciato su questa strada, su questa via, e l'ignoranza di alcuni che si chiedono perché succedono cose che sono strane anche per me. Quello che voglio, basta con le ipocrisie. Mi gioco l'ultima carta, me ne vado via da qua. Riprendo la mia vita in mano, rivoglio la mia identità.